Preyaman. Pro mikrofonu. Check. Check. Senza coscienza, dico senza coscienza. Senti quanti dico senza coscienza. Senza coscienza, dico senza coscienza. Senti tutti quanti dico senza coscienza. Fanno la guerra, alzano confini, annegano la gente, fluri di assassini. Senti senza coscienza, dico senza coscienza. Senti senza coscienza, dico senza coscienza. Distruggono la natura, devastano e saccheggiano, inquinano, deturpano e di questo non si vergognano. Senza coscienza, dico senza coscienza. Senza coscienza, dico senza.